4 mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre des décisions. E alla guerra la Francia risponde con la guerra, almeno quello che si legge oggi dai giornali, le prime bombe francesi, 20 su Raqqa. In Siria. Perché è da lì che sono partiti gli ordini, questo almeno secondo fonti di intelligence, l'ordine proprio da Abu Bakr al-Baghdadi di far colpire nel cuore la Francia. Cari amici, il numero per i vostri messaggi, ma soprattutto per i vostri messaggi via WhatsApp, se volete, al 349-238-6666. Ci siamo lasciati venerdì in maniera allegra, spensierata, qui al Parlamento, dove si raccontano tante cose anche col tono un po' leggero. E ci ritroviamo così. Per carità, diciamolo subito, non è una guerra di religione. Oh, l'ho detto così, non è una guerra di religione. Così sono tutti tranquilli anche quelli che hanno litigato con me su Twitter durante il weekend. Ma non si può dire una cosa, perché bisogna non urtare la suscettibilità di qualcuno. Non bisogna dire che la religione c'entra. Non bisogna dire che l'Islam c'entra. Eh no, su questo non sono d'accordo. Non è una guerra di religione, ma possiamo dire che una religione in particolare c'entra, che abbiamo problemi con alcuni, lo so anch'io, non ditemi la maggioranza di coloro che professano la religione islamica sono moderati, lo so anch'io, ma che banalità. Ma alcuni, speriamo pochi, fanatici che in nome di quella religione si fanno brillare, si fanno saltare in aria, ci sono o li inventiamo noi? Ernesto Galli della Loggia, prima pagina del Corriere della Sera, le prime righe oggi. Come faccia il terrorismo che tutti, ma proprio tutti, definiscono islamista a non avere nulla a che fare con l'Islam è qualcosa, mi pare, che dovrebbe richiedere una spiegazione. Non lo so. Perché ci diranno e cominciano a dire sui giornali, per carità, che queste persone sono cresciute, alcune di loro, queste persone che si sono fatte saltare in aria, oppure hanno ucciso indiscriminatamente donne, bambini, anziani, civili, eccetera, sparando sulle schiene delle persone. Ci diranno che sono cresciute nelle banlieue parigine e sono disadattate, isolati, poverini. Poveri, pensate quante persone italiane, ma di tutte le nazionalità, vivono nelle periferie disadattate e quindi dovrebbero un giorno, chissà, prendere un fucile e sparare a qualcuno. Ci diranno che c'è stato il flop dell'intelligence ed è assolutamente vero. Ci diranno che forse le bombe non aiutano ed è assolutamente vero. Io sono contro la guerra, ero contro la guerra in Iraq, per esempio. Tutto questo non aiuta, però non si può dire tutto, ma non si può dire quella roba lì, che abbiamo dei problemi con alcuni, ripeto, che in nome della religione islamica si fanno saltare in aria. Va bene, siamo qui con 24 Mattino, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia, c'è il Barlamento, vogliamo aprirlo anche oggi? Sì, sì, 133esima settimana decisiva per abolire le province. Ma adesso dite chi se ne frega delle province, almeno per questa settimana lasciamole da parte. Allora, voglio salutare subito una persona che certamente non la penserà come me, non lo so, Alessandro Giglioli, d'altronde interista, permettete la battuta. Dici che è questa l'origine delle nostre diversità. Può essere, può essere in radice una delle... Però non hai detto niente di... No, no, no, ma come? Ma guarda, perché per aver detto... Hai fatto solo un piccolo passo, sono degli altri passi da fare dopo. Ah, va bene. Un passo piccolino. Un piccolo passo verso, per l'umanità. Sì, sì, certo, passo, certo. Ma troppo, il problema è che è troppo piccolo, secondo me. Siamo qui giusto per parlarne. Per aver detto una cosa che sembra una cosa banale, mi hanno detto su Twitter, per esempio, ho scritto, voi conoscete... Se non fare la vittima, lì non mi metto. No, ma no, no, no, no. Qualunque cosa dite, arrivano gli altri. No, no, no, no, ma dico quello che ho scritto. Io ho scritto semplicemente questo. Conoscete oggi, oggi è oggi, ho detto, perché... Che la gente mi ha risposto, le crociate, sì, il pleistocene. Oggi ho detto, conoscete persone di una religione, sì, che ne so, buddisti? Sì, se vuoi te le racconto. Sì, vabbè, a parte, però me devi dare un po' di tempo. Va bene, cristiani, ebrei, induisti, sì, piena, che induisti, sai quanto menano gli induisti? Vabbè, meno, c'è il fondamentalismo induista. Vabbè, ma il fondamentalismo c'è dappertutto, ma che oggi, entrano nelle nostre città e dai. Colpi di Kalashnikov ci sparano nelle schiene? No, se voi li conoscete, mi dicono Breivik viene subito, dopo un secondo la risposta, tutti si rifugiano dietro un Breivik, ma come se poi dovessero dare... Vediamo se oltre il rifugio si può fare un passo avanti. È come se dovessero dare colpa a me, ma sai io cosa rispondo alla fine? Vabbè, ma sapete che c'è? Auguri a tutti noi, questa forse è la base in comune che abbiamo. Certo, auguri a tutti noi. Poi dirò un'altra cosa a chi mi risponde. E tu cosa proponi? Risponderò tra poco cosa propongo. Prima voglio salutare insieme a Alessandro Giglioli, dell'Espresso e blogger col suo Piovono Rane. La nostra sarà combattivissima. Mamma mia, come faccio a fermarla oggi? Aurora Lussano. Buongiorno. Ho già detto tutto io, Aurora. Ho già fatto il sermone di prima mattina. Ma cosa sei, l'imam di Radio 24? No. Un caro saluto a Giglioli e a tanti troppi amici di Radio 24. Troppi. Troppi. Perché ieri sei andata a un raduno padano, ti hanno detto... Ah, lo sai, sì. Sì, no, c'era Matteo Salvini che ieri sera fa un Dove? Collegamento e l'altro, perché era in diretta anche a Virus. Ha fatto un bel incontro a Lido di Cadenabbia, Tremezzina, Alto Lago di Como, quindi Alto insomma, Lago zona di Lega Como. Di... Sì, sì, i laghe. Grande gente. E ti hanno detto che ti ascolta su Radio 24, se arrabbiano o no? Eh sì. Vabbè, pazienza, dai. No, ma ti salutano tutti, ascoltano anche loro sempre i tuoi sermoni. I miei sermoni, vuoi farne anche uno tu? Devi dire qualcosa così poi Giglioli lo facciamo un po' per arrabbiare. No, vuoi dire che ci confisteranno grazie alle nostre leggi. Beh, adesso ci conquisteranno. Ecco, vedi che fai tre passi avanti. Non esageriamo. Perché ci conquisteranno? Ma perché, visto quelli lì che pianificavano un attentato in Alto Adige, mantenuti dallo Stato, erano dei terroristi islamici smascherati tra Bolzano e Merano. Uno viveva addirittura in una casa pagata dallo Stato, aveva un sussidio di 2.000 euro al mese e godeva dell'asilo politico concessogli dallo Stato. Ecco, capito Giglioli, con le nostre leggi ci conquisteranno utilizzando le nostre leggi. Questo. Giglioli, sei svenuto? A questo? No, pensavo fossi svenuto. No, non lo so. Beh, sì. Ma sì. Ci conquisteranno per il rifugio. Io non credo che ci conquisteranno, credo che sul medio-lungo termine saranno conquistati dalla laicità anche loro, come siamo stati noi grazie all'illuminismo. Hanno colpito la città, che nel loro comunicato, non so se avete visto il comunicato dell'ufficio stampa del Califfato, che dice che hanno colpito Parigi perché è capitale degli abomini e della perversione. Il Vaticano è dopo una città ampiamente secolarizzata, non certo una città cattolica o cristiana. Perché c'era una festa di perversione, no? Cosa intendano i terroristi per perversione, però è evidente che Tutto ciò che è bello e simpatico è perverso per loro. Bravo, tutto ciò che è bello, laico, simpatico. Parigi è la capitale dell'illuminismo, la capitale dei libertini, è la capitale della libertà di pensiero, è la capitale del dubbio, è la capitale della risata dissacrante, della gioia di vivere, della libertà di giudizio, no? E anche del terrore, però. E questo qua evidentemente sta sulle palle a tutti i fondamentalisti, no? Ai fondamentalisti e agli integralisti, a coloro che non amano la laicità. C'è una guerra di civiltà, e anche io lo penso che c'è una guerra. E non penso che ci sia una guerra di civiltà fra cristiani e islamici. No, quelle le abbiamo fatte 600 anni fa più o meno. Neppure del tutto fra Occidente, geograficamente fra Occidente e Asia. Fra l'altro in Asia sono stati molto laici, anche stati molto laici, non islamici, intendo dire. Credo che ci sia una guerra di civiltà fra laici e integralisti. Ho capito, però quello che dice Aurora, cioè ci conquisteranno con le nostre leggi, effettivamente anche a me è colpito che quello beccato a Merano era a spese della provincia, sostenuto dal nostro welfare. Per carità, avrà ingannato le leggi, però lo ha fatto. No, ma guarda, forse se vogliamo vedere il fenomeno del terrorismo islamico nel suo complesso, è ricco di segnali, di controsegnali, all'interno del terrorismo islamico ci sono tantissime cose che noi dobbiamo cercare di vedere con un minimo di complessità. Alcune di quelle che hai detto tu, Mila, io le condivido. Cioè, è evidente che nell'Islam c'è un problema di mancanza di passaggio dell'illuminismo, mancanza di passaggio della laicità. Non c'è stato, o se c'è stato, è stato troppo minoritario, ha coinvolto troppo poca gente. Quello che mi lascia un po' perplesso, al di là di tantissime altre cose, poi se vuoi parliamo delle bombe, no? Lascia un po' perplesso è vedere che di fronte a questo attacco alla laicità, a questo attacco al nostro modo di pensare elaborato faticosamente in 200 anni, in cui ci siamo liberati dell'integralismo cattolico, noi reagiamo pensando di rinunciare alla nostra laicità. Ma è chiaro, cioè cosa proponi? Perché Aurora, io vorrei capire, tu sei a favore delle bombe, cioè fa bene la Francia a reagire così, a Raqqa, andare a bombardare? Che ne pensi? Ma perché è un dibattito anche italiano. Prima che andare a portare guerra in casa degli altri, comincerei a far pulizia in casa nostra. Sai, io sono sempre un po', mi puzza sempre un po' di imperialismo andare in casa degli altri. Non lo so, ma probabilmente è un mio limite. Ecco, io preferirei controllare meglio i nostri confini, avere un miglior controllo del territorio. Non sappiamo più chi entra, chi esce, chi va, chi viene. Ecco, cominciamo a star sicuri un pochino a casa nostra. Poi per me, ripeto, le frontiere sono un antidoto all'intolleranza, quindi io faccio sempre un elogio alle frontiere, difendono ciò che è buono. Quindi tu vorresti rimettere Schengen, controllo alle frontiere. Vorrei innanzitutto cominciare a controllare quello che succede a casa nostra. Sì. Eccola. E poi sì, un'azione coordinata, un asse europeo-asiatico, sì, però, con la Russia che è strategica. Va bene, Aurora, no, ma questo mi sembra, ma d'accordo, ma mi sembra un qualcosa di, come dire, di aver già perso nei confronti della storia, cioè come si fa a tornare alle frontiere, alle... territorio, Milan, cioè, ma il controllo del territorio, sono d'accordo, lo deve fare l'intelligence. Ormai è Belgistan, avete letto che stanno andando a prendere la gente, ormai è il Belgistan, perché sono almeno 10 anni che in Belgio c'è un radicalismo, cioè voglio dire, però il controllo del territorio lo dovrebbe fare le forze di intelligence, quello che in Francia non hanno fatto, per esempio, cominciamo in casa nostra a far andare bene le robe e poi andiamo anche in casa degli altri fare le guerre. Temo che sia un po' all'interno di qualsiasi però ideologica. È contro le bombe, come te, su questo contro le bombe. Aspetta, ma io non sono una pace finta, no, nel senso, pace finta no, però non sei con cautela andare in quei territori prima controllo del proprio territorio. Tu Alessandro che dici? Allora, dico che secondo me, al di là di qualsiasi visione ideologica del territorio, dell'identità, no? Io credo che l'identitarismo sia molto legato alla logica che hanno gli estremisti islamici, ma al di là di questo problema del posto, aspetta. Il problema del territorio è un po' l'accennato tu, Mia, è che non si può fare. Cioè, nel 2015, in un mondo così interconnesto, non è facile. Non è proprio possibile, è un mondo interconnesso, siamo noi altro che andiamo lì, e ti sto parlando dei crociati, Milan, sto parlando del fatto che noi vendiamo armi e compriamo petrolio indirettamente da questi signori, quindi li finanziamo. Sì. C'è un articolo, mi pare, anche sul Sole 24 Ore di oggi, proprio, non so se l'hai segnalato. Non ancora, rassegna stampa. Sì, scusami, siamo in orario pre-rassegna stampa. Su quanto l'Occidente finanzia l'ISIS, che non vuol dire che noi siamo brutti e cattivi, vuol dire che spesso compriamo il petrolio, viviamo di quello, sopravviviamo grazie a quello, all'economia del petrolio. Soprattutto una guerra in cui molti degli stati a noi legati, dall'Arabia Saudita in primis, ma un po' anche la Turchia, addirittura la Turchia è dentro l'Alleanza Atlantica, è cugino della nostra alleanza. Sappiamo che tutto il petrolio, buona parte del petrolio che compriamo da Daesh, che quindi va nelle casse del califfo, passa dalla Turchia. Sappiamo che la Turchia l'ambigua Turchia bombarda i nemici, chi sul campo combatte il califfato, no? Cioè i curdi che sul campo combattono i califfati a Kobane e in altri posti sono bombardati dalla Turchia, quindi siamo in una situazione un po' paradossale in cui un alleato nella nostra alleanza atlantica bombarda e combatte il nostro nemico. Sì, tra l'altro Turchia, dove lì proprio, dove lì ci sono adesso i grandi della terra, dove Obama e Putin si sono visti per 35 minuti. Renzi è andato a stringere la mano al boss saudita l'altro giorno, per carità, realpolitik, però questi sono i nostri nemici, o meglio, siamo in una situazione in cui è una guerra strana, no? Sì. Questa è una guerra strana, noi usiamo la parola guerra perché non ne abbiamo trovato una nuova, perché questa è una guerra in cui ha un fronte fatto a macchia di leopardo, un giorno a Manhattan, un giorno in Nigeria, un giorno in sui cieli del Sinai, un giorno in una mi sembra difficile comunque sulla cosa che hai detto tu, il controllo del territorio, per carità, anch'io lo vorrei, Aurora, anch'io lo vorrei molto, al 100%, così però non è facile. Che vuoi far propaganda, però poi in realtà, se noi vogliamo vedere la realtà così com'è, siamo di fronte a una realtà così interconnessa, che non è facile farlo, però Aurora, quindi questa è la risposta, anch'io lo vorrei il controllo del territorio, ma davvero lo vorrei, e anche a me dà fastidio leggere che il presunto terrorista o quello che tramava qualcosa a Merano era pagato dalla provincia, o meglio dal comune di Merano, dai servizi sociali, perché evidentemente era riuscito a farsi passare per quello che non era. Però andiamo a dare le informazioni sul traffico, poi a tutti quelli che dicono ma tu cosa proponi? Niente propongo, a parte che faccio il giornalista non ho risposte, ma comunque dopo vi dirò cosa ne penso. Mamma mia, non ce la faccio più, e datemi questo benedetto traffico. Caro Milan, l'unica soluzione per combattere l'ISIS da noi in Francia, in Germania, ci vuole la polizia in borghese, mischiata la gente, armati e in borghese. Mira, ma anche sentire certi presunti esperti che dicono che i terroristi dell'ISIS si finanziano vendendo il loro petrolio. Ma quale petrolio? Da dove lo estraggono? Chi glielo estrae? A chi lo vendono? Come lo trasportano? Dove lo imbarcano? Poi basta con questa storia dell'Islam moderato. Non è l'ISIS che non vuole i presepi nelle nostre scuole, i crocifissi nelle nostre scuole. Non so perché ci stupiamo di quello che è successo a Parigi, ma una signora di nome Oriana Fallaci l'aveva già scritto 10 anni fa. Vabbè, pensieri dei nostri ascoltatori. Cara Aurora Lussana, caro Alessandro Giglioli, che dici? Che dici Aurora? No? Che... Allora, il nostro mondo occidentale, laico, laicista, insomma, che sarebbe rappresentato dalla città di Parigi, insomma, ci racconta di un'epoca contemporanea in cui il potere spirituale e quello temporale sono divisi, però insomma... voglio dire, di conflitti, scismi, crociate, dispute sulla natura del Cristo ci sono state anche nella nostra Europa cristiana, ci siamo scannate anche noi per motivi religiosi, è un'Europa, la nostra, ormai totalmente desacralizzata. Sono d'accordo sul fatto che per essere tolleranti, ho imparato a memoria il trattato sulla tolleranza religiosa di Voltaire ai tempi del liceo, ecco, e per rimanere plurali, e ripeto, e aperti, con le frontiere aperte, perché devono restare aperte, perché noi siamo con la civiltà qua. Ci ritroviamo. Ricordiamoci però che i confini della nostra Europa si sono sempre determinati sulla scorta di un conflitto con l'Islam. Perché a Roma ci sono le mura leonine, perché c'è stata Lepanto, l'assedio di Vienna, la Reconquista, cioè la nostra contemporaneità che si scontra con questo mondo arcaico, perché comunque anche il nostro mondo è contrassegnato dalla fine del sacro, però è un mondo nel quale per rimanere così liberi, per andare a concerti di rock, per andare a mangiare al ristorante cambogiano, per continuare a fare questa vita che poi forse non è... questo è il nostro, il mondo migliore possibile. Vabbè, è un mondo che ognuno, si crea in libertà. Per vivere così in questo mondo laico e tollerante, siete d'accordo che ci devono essere delle regole condivise. E passa anche dal controllo. Io lo chiamo volgarmente, banalmente, prosasticamente, controllo del territorio. Controllo del territorio. Che dice oggi il governo francese. Chiudiamo le moschee radicali. Noi in Italia non abbiamo neanche un'intesa con l'Islam, perché non riescono a mettersi d'accordo. Chiudere le moschee. Ma fanno proselitismo in altro modo. Sai che uno di questi chattava attraverso la PlayStation con la Siria per prendere ordini. Non è che se chiudi la moschea. Allora, il giorno prima l'Iraq avverte la Francia: attenti, l'ISIS è pronta a colpire. Tutto fuori controllo. Tra l'altro, attenzione, scusa, ti devo interrompere perché c'è una notizia adesso dalle agenzie: c'è stato un blitz antiterrorismo e 3 arresti a Tolosa. Sì, per la strage del 2012. Sì, esatto, in questo momento ovviamente si cerca di reagire. No, allora chi mi dice ma che cosa fare? Che cosa proponi di soluzione? Come se io fossi qualcuno in grado di proporre una soluzione. Non ho una soluzione, faccio il giornalista. E poi banalmente, secondo me, non c'è una soluzione. Non c'è. Dovremmo semplicemente convivere con questi farabutti disgraziati terroristi che ogni tanto ammazzeranno 100-150 di noi. Ma non è questione di pessimismo. Perché mi dicono qual è la soluzione? Vai a sterminarli tutti. Ma mica sai il nome, il cognome, l'indirizzo, le cose. Possiamo solo ridurre il danno. Credo che sia abbastanza evidente. Possiamo cercare con grande sforzo di intelligence, con grande tentativo di stroncare i finanziamenti che hanno, ma purtroppo qui, come ha detto Giglioli, ma la questione... Toyota chi è che gliele dà l'ISIS? Le Toyota? Se le comprano. Ma le avevano date forse ai nemici di Bashar Assad? Se le comprano. Comunque anche la questione fa un giro da Washington. Infatti la questione di fermare il finanziamento non è facile, perché è molto complicata, perché poi dove ci sono, le davano molto, ai nemici di Bashar al-Assad, adesso ce l'hanno quelli dell'ISIS. Ma è vero quello che dice Giustana, così come è vero che buona parte delle armi che hanno Al-Qaeda in gliele abbiamo date noi quando combattevano i russi. È per questo che dico fermare i finanziamenti è difficile. Però un paio di riflessioni possiamo farle lo stesso. È vero che la bacchetta magica, per carità, non c'è nessuno, che noi siamo soltanto piccole persone che cercano di sopravvivere. Però qualche cosa forse si può, anche perché non è un fenomeno che è nato adesso, no? Sono almeno 15-20 anni che c'è. Abbiamo visto che la decantata Oriana Fallaci, sì, in questi giorni decantata persino dal Corriere, aveva proposto la soluzione più, che si sono rivelate più sbagliate, perché le guerre di cui lei era grande supporter, le guerre fatte da Bush, sì, sì, hanno creato l'ISIS, le guerre in Iraq e in Afghanistan l'hanno creato, quindi evidentemente fare la guerra di per sé, forse dovremmo anche vederla, e qui vengo alle bombe, sotto un aspetto non ideologico, non a priori pacifista o a priori, sì, bellicista, a priori in Qatar, ci hanno fatto questo, andiamo a bombardarli. Quello che si è visto è che delle guerre fatte senza un minimo di organizzazione, sì, spesso hanno, di piano, hanno peggiorato, hanno portato, le cose. Ma infatti io sull'Iraq ero contrario, per esempio. Quindi anche essi, tu eri contrario, metà delle persone che molti erano favorevoli oggi stanno zitte o dicono addirittura andiamo a bombardare Raqqa, che può anche essere una soluzione se fosse all'interno di un minimo di piano per il dopo. No, ma è chiaro che la soluzione semplicemente militare non lo è. È che fermare le questioni finanziarie, cioè fermare i flussi finanziari, è ancora più complicato, perché come dici tu, Giglioli, e poi dopo molti occidentali vivono anche del finanziamento all'ISIS, o molti stati occidentali, molte aziende, molti. Non è facile. Non ho una soluzione, non è che sono pessimista quando dico dovremmo convivere con questa situazione, ma mi sembra abbastanza evidente, dal 2001 dobbiamo convivere con questa situazione quotidiana. Comunque vi devo fermare, ci sarebbero tante cose da dire e tante le diremo ancora. C'è la rassegna stampa dopo il giornale radio, poi con Oscar Giannino dalle 8:15 torneremo ovviamente a parlare di questo tema. State con noi, vi ringrazio Aurora Lussana, Alessandro Giglioli, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, le 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che ovviamente parleremo di quello che è successo a Parigi anche più tardi, dalle 8:15 con Oscar Giannino. Continueremo in questa lunghissima diretta che Radio 24 di fatto ha fatto partire dal momento degli attentati. Bene, noi avremo ospite Domenico Quirico della Stampa, avremo ospite Marc Semo, che è esperto di strategia anche militare per il quotidiano Libération. Dalle 8:15 ovviamente i microfoni saranno aperti dalle ore 8 con il numero 800 24 0024, è il numero che potete chiamare. Dalle ore 8 centralini aperti per dire quello che pensate di questa situazione. Il numero per i vostri messaggi anche via WhatsApp al 349 238 6666, il numero consueto. Intanto andiamo a leggere i giornali. Lunedì 16 novembre, i titoli sono tutti ovviamente declinati alla vicenda parigina, a cominciare dal Sole 24 Ore. Oggi non esce la tradizionale edizione del lunedì, ma è totalmente rinnovato, aggiornato con le notizie dell'ultima ora, e il titolo principale del Sole 24 Ore è la risposta di Parigi, bombe sull'ISIS. È l'apertura un po' di tutti i quotidiani, è l'ultima novità, le bombe francesi sull'ISIS anche per il Corriere della Sera, cioè la decisione della Francia di bombardare a Raqqa in Siria, uno dei punti strategici per lo Stato Islamico. Repubblica, caccia ai killer, paura a Parigi, pioggia di bombe sul Califfato. Per la Stampa, rappresaglia francese, bombe sull'ISIS. Anche il Messaggero, furia francese, bombe sull'ISIS. Il Fatto Quotidiano, Francia, bombe a raffiche sull'ISIS. Italia, 1000 islamisti controllati. Il Giornale invece mette in prima pagina Valeria Solesin, la vittima italiana di Parigi. Siamo quasi tutti Valeria, uccisa dalle bestie. Questo è il titolo del Giornale. mentre Libero, perché i buonisti ci condannano, Libero che esce con la testata con i colori della bandiera francese. L'Unità invece, il massacro della meglio gioventù, questo è il titolo di prima pagina. Come vedete, i titoli sono ovviamente tutti dedicati a questo 13 novembre e poi le successive notizie. Allora, partiamo dalle novità, e cioè la Francia ha deciso di reagire anche con un attacco militare. I caccia francesi bombardano l'ISIS a Raqqa, racconta Marco Mussanè da Parigi per il Sole 24 Ore, a pagina 5, la rappresaglia scattata 48 ore dopo, nella notte, mentre la polizia francese, confermata la pista franco-belga dei massacri di Parigi, si lanciava in una caccia all'uomo all'inseguimento dell'ottavo terrorista dei massacri, è partito dalle basi degli Emirati Arabi Uniti e della la Giordania l'ordine a 12 caccia di levarsi in volo per andare a bombardare Raqqa. Il presidente francese Hollande aveva promesso una risposta durissima. 20 bombe sono state sganciate su due obiettivi, colpiti un centro di comando, un deposito di armi, un campo di addestramento, centri nevralgici dello Stato islamico, con l'appoggio anche degli Stati Uniti, che hanno fornito ai francesi dati di intelligence per i raid. In Francia, in Belgio invece è caccia all'uomo nei confronti di Abdeslam Salah, l'ottavo terrorista che faceva parte dei tre gruppi di fanatici islamici che venerdì hanno precipitato Parigi nell'orrore. Quindi questo è questa è la prima risposta da parte di Hollande. Aveva detto saremo spietati, e intanto c'è questo raid militare da registrare. Ci saranno le polemiche a dire non è il modo giusto, è il modo giusto, penseranno altri. Sta di fatto che Parigi ha colpito, anche perché, come racconta Maurizio Molinari a pagina 5 della Stampa, l'ordine dell'attacco a Parigi è partito direttamente da Abu Bakr al-Baghdadi. Per questo la Francia ha deciso di bombardare Raqqa. Ora, che l'ordine sia partito dal il numero uno del califfo, del califfato e quindi dell'ISIS, lo dicono fonti di intelligence raccolte a Baghdad. Racconta Molinari, la decisione di Parigi e Washington di infliggere al califfato danni severi nasce da risultati di indagine al massacro francese. A descrivere la genesi di quell'attacco sono ufficiali dell'intelligence irachena, citando le informazioni raccolte da nostre fonti nello Stato islamico in un resoconto alla Associated Press, che si accompagna così alla rivelazione di aver informato in anticipo le capitali occidentali Mosca e Teheran sulla decisione del califfo di colpire in profondità i paesi che lo attaccano. Ecco dunque che, secondo fonti di intelligence irachene, sono partiti dall'ISIS gli ordini per colpire quegli stati che attaccano la Siria o attaccano comunque le basi dello Stato islamico, tra cui Parigi, ed ecco qui la risposta di Parigi stessa. Tra l'altro, secondo l'intelligence irachena, sono 24 le persone coinvolte negli attacchi a Parigi, 24, non gli 8, non i 9, non coloro che sono intervenuti, ma 24 le persone a vario titolo ovviamente coinvolte anche nella programmazione di questo attentato. Infatti Repubblica fa, secondo me, l'articolo più interessante con Carlo Bonini e Fabio Tonacci a pagina 4 e 5, è interessante perché riepiloga proprio in due pagine con anche cartine come si sono mosse le persone che sono coloro che sono intervenuti, i terroristi che sono intervenuti venerdì a Parigi. L'inchiesta sui macellai del venerdì 13 approda qualche ragionevole certezza. Giustamente scrivono Bonini e Tonacci qualche ragionevole certezza, perché i contorni non sono ancora del tutto chiari. La cellula responsabile della morte di 129 innocenti era composta da almeno una dozzina di uomini, 9 dei quali appartenenti al comando. Quindi 9 del comando, più 3 di logistica, diciamo così. Dei 9 del comando, 7 sono morti. Uno è in fuga, ne è stato reso noto il nome, Abdeslam Salah, 29 anni, francese nato in Belgio, che ha affittato le due auto utilizzate per la mattanza. Degli altri, di cui poco o nulla filtra dall'inchiesta, uno sarebbe l'artificiere che ha confezionato le cinture esplosive con perossido di acetone e bulloni. Anche lui ora è braccato. E ancora, la cellula aveva la sua tana in Belgio, a Bruxelles, nel quartiere Molenbeek. Ma l'operazione è stata diretta da quadri dello Stato Islamico con cui la cellula ha mantenuto i suoi contatti nelle settimane precedenti. C'erano anche, ormai è noto, tre fratelli che facevano parte della cellula, tutti e tre francesi ma residenti in Belgio, a Bruxelles, nel quartiere appunto Molenbeek. Uno è destinato a morire, gli altri due a sopravvivere. C'era anche uno tra i morituri del Bataclan, Ismael Omar Mostefai, che ha tenuto i contatti con la Siria attraverso la console PlayStation 4 e la chat vocale criptata con cui manteneva i contatti con la Siria stessa. Beh, è interessante comunque questa ricostruzione a pagina 4 e 5 di Repubblica di come si è mossa questa cellula, dai contorni un po' ancora tutti da chiarire. Marco Imarisio invece del Corriere della Sera, ovviamente i giornali hanno tutti moltissimi inviati in Francia, Marco Imarisio in prima pagina va a cercare di parlare con coloro che vivevano vicino a questi terroristi. Ed ecco allora se il kamikaze è un vicino di casa. Certo che lo conoscevo, in fondo ero io a pagargli l'affitto, dice un vicino di una di queste persone che si è fatta saltare in aria. Ismail Omar Mostefai, nato il 21 novembre 85, venerdì, è diventato il primo kamikaze della storia della Francia. Come lo definisce lui? Ma faceva consegne porta a porta di generi alimentari prima che un vigile lo fermasse e gli chiedesse di esibire una patente che non aveva mai avuto. Da quel momento è diventato disoccupato e la sua lista di precedenti penali è lunga, ma non tale da avergli mai fatto passare anche un solo giorno in prigione. Piccoli reati, cominciati con un furto a 13 anni, quando il preside della scuola media Paul Gauguin chiama a rapporto i genitori perché sono scomparsi alcuni giacconi. Seguirono un fermo per rissa, un altro per ubriachezza molesta. Hai capito, il musulmano molto fedele. Altre furte e altre risse. E poi la storia anche dei tre fratelli belgi, il tentativo insomma del Corriere della Sera di andare a cercare di fare un profilo di chi li conosceva, e dice ora: ma non c'era nulla di sospetto a tal punto. Certo, erano persone che vivevano un po' così, ma non c'era nulla che facesse pensare a tutto questo. Vabbè, che dobbiamo dire? Gli articoli ovviamente dedicati a questo sono tantissimi, i commenti, gli articoli, gli inviati, le storie, le foto, in questi casi non sono ovviamente riproducibili per radio, ma le foto sono sempre degli spaccati molto molto interessanti per i giornali, foto spesso drammatiche che raccontano questa tragedia. Dai, riprendiamo da qui, tra pochi minuti. Oh, non è che mi sono dimenticato mani sul volante, la carta costa, ma oggi li mettiamo più avanti, in coda di rassegna stampa. State con noi perché continuiamo la lettura dei giornali, ancora tanti articoli dedicati a quello che è successo a Parigi dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Vabbè, l'arrotino dell'informazione. Allora, cari ascoltatori, ovviamente ci sono anche tanti commenti, tanti editoriali sulla vicenda di Parigi. Ve ne sottopongo all'attenzione uno di Ernesto Galli della Loggia, a mio modo di vedere assolutamente condivisibile. Scrive Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera: come faccia il terrorismo che tutti, ma proprio tutti, definiscono islamista a non avere nulla a che fare con l'Islam? È qualcosa che dovrebbe, mi pare, richiedere una spiegazione, che invece non ci viene mai data dai tanti che pure ci ammoniscono con severità a tenere separate le due cose. L'unica spiegazione talvolta offertaci circa l'obbligo di tale separazione starebbe nel fatto che la maggior parte delle vittime del terrorismo suddetto, a Baghdad per esempio, a Beirut, ad Aleppo, al Cairo, sarebbero in realtà proprio islamici, il che è vero. Peccato però che nessuno dei 1000 attentati commessi in quei luoghi sia mai stato rivendicato, che si sappia, con proclami a base di citazioni di sure del Corano e di relative maledizioni contro gli infedeli, come invece è la regola quando nel mirino è ieri Parigi o in genere l'Occidente. L'impiego ad uso bellico dei testi sacri, insomma, è riservato soltanto a noi. Dunque smettiamola di nasconderci dietro un dito. La religione c'entra e come? Innanzitutto perché islamici ferventi e religiosamente motivati sono i terroristi. E poi per un'altra importante ragione, perché ciò che lega le mani all'islamismo moderato, che senz'altro esiste ed è maggioritario, impedendogli regolarmente di farsi sentire, è per l'appunto il ferreo ricatto della comunanza religiosa. Scrive ancora più avanti Della Loggia: non si tratta di dichiarare né una guerra tra civiltà né una guerra tra religioni, ma iniziare un'analisi, una discussione dai toni anche aspri se necessario sugli effetti che ha avuto il ruolo identitario della religione islamica sulla società dove essa è stata egemone. Significa chiedere conto, e il modo migliore per aiutare l'Islam moderato a liberarsi del ricatto religioso è quello di incalzarlo a un confronto senza mezzi termini. Quindi chiedere conto di continuo a quell'Islam del perché mai quasi sempre nel suo mondo le donne debbano essere tenute in una condizione di spaventosa inferiorità, perché nei suoi paesi non si traduca un libro, tranne il Mein Kampf o i protocolli dei savi di Sion. Perché non ci sia mai un'importante mostra d'arte? Perché costruire una chiesa o una sinagoga debba essere vietato? Perché essi non abbiano sottoscritto, se non parzialmente, le dichiarazioni sui diritti dell'uomo? Perché in genere si faccia così poco per debellare l'analfabetismo? Insomma, scrive Galli della Loggia, questa è la battaglia culturale che dobbiamo lanciare senza le solite ipocrisie. Questo è anche il titolo del suo editoriale in prima pagina del Corriere della Sera. Poi le analisi, Leonardo Maugeri ci fa sapere sul Sole 24 Ore, a pagina 11, che insomma si dice ma l'ISIS vive di petrolio, ma in realtà il petrolio per l'ISIS è un'arma spuntata. Questa è l'analisi di Leonardo Maugeri. Lo Stato Islamico, cioè, è attivo in Iraq e Libia, due paesi che sono a bassa capacità produttiva di petrolio. Leonardo Maugeri, a pagina 11 del Sole 24 Ore, leggetela questa analisi, perché spesso si dice ma hanno tanto petrolio e vivono di quello. In realtà non è poi così vero. Poiché la guerra al terrorismo sarà lunga, ci saranno rischi maggiori solo se il califfato accrescerà nel frattempo le sue capacità militari. Così Leonardo Maugeri, che scrive: c'è troppo petrolio nel mondo, almeno nel breve periodo l'eccesso non è destinato a evaporare, questo garantisce una certa stabilità al mercato, mentre l'ISIS è in zone dove il petrolio non è poi così diffuso. Ovviamente ci sono tante pagine dedicate anche alle vittime, in particolare la ragazza italiana, ovviamente non perché lei sia più vittima degli altri, ma in questi casi funziona anche una certa vicinanza legata alla nazionalità. E dunque tutti raccontano la storia di Valeria Solesin, 28 anni, l'ultima canzone Gli spari, questo è il titolo di pagina 9 del Corriere della Sera. Ovviamente testimoni che dicono sembravano effetti speciali e invece è stata uccisa, era al Bataclan insieme a tante altre ragazze e ragazzi, uomini e donne che sono stati uccisi dai terroristi che hanno colpito proprio questo luogo. Tra l'altro segnalo, per quel che riguarda le vittime, che La Stampa in prima pagina mette una sorta di controcopertina, cioè mette una prima pagina diversa, quattro pagine proprio dedicate alle vittime, 129 storie, certo poi ci sono i tanti feriti, 15 paesi coinvolti come nazionalità delle vittime, un universo di passioni, speranze, futuro, tutto il mondo è qui, è la copertina della Stampa. Ci sono anche diverse foto almeno delle persone finora accertate come vittime, sono almeno una quarantina e sono tutte ritratte in foto in questa copertina sulla prima della vera testata della Stampa con tutti gli altri articoli. Per quel che riguarda invece il G20, c'è la reazione anche dei grandi della terra, come si suol dire, perché Obama e Putin si sono visti al G20 in Turchia Per cercare di dare una risposta all'ISIS, un incontro di 35 minuti. Tra l'altro vi segnalo da questo punto di vista l'interessante articolo di Alberto Negri a pagina 2 del Sole 24 Ore. Perché? Perché Alberto Negri racconta proprio l'ambiguità di un leader come il leader turco Erdogan, principe dell'ambiguità. Ebbene sì, proprio colui che ospita ora il G20, scrive Alberto Negri: alla vigilia delle elezioni, dopo l'attentato di Ankara con oltre 100 morti, il braccio destro di Erdogan aveva definito il califfato ingrato e traditore. Più che una gaffa, questi termini sono apparsi come un'ammissione di colpa. Non mancano infatti le prove, se non di amicizia, almeno di compiacenza della Turchia nei confronti dello Stato islamico. Erdogan è uno dei principi dell'ambiguità mediorientale presenti al G20 di Antalya. E la guerra, il califfato, è una vicenda in cui la Turchia ha giocato un ruolo essenziale con la complicità di potenze occidentali, di quelle che sunnite, che in Siria hanno condotto un conflitto per procura all'Iran sciita. È interessante l'analisi di Alberto Negri, la trovate in prima pagina e poi continua a pagina 2 del Sole 24 Ore. Caro Mauro Meazza, qui a districarsi da tutti questi articoli non è semplice, ma eccoci qui, non c'è solo questo ovviamente sui giornali e sul Sole. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. No, non c'è solo questo, anche se proprio dal Sole ti volevo segnalare, seguendo il filo del legame tra i finanziamenti e il terrorismo, anche l'affetto che potranno avere i fatti di Parigi e poi anche la risposta di ieri francese su Raqqa, le aspettative per i mercati che sì, appunto questa mattina riaprono, e vedremo come seguiremo sia sul sito sia naturalmente con Radio 24 per sapere qual è l'effetto. Noi siamo anche andati a verificare cosa è successo sui mercati nelle giornate immediatamente successive ad analoghi atti terroristici. Non deve sembrare blasfemo, perché appunto, come dicevi tu, è importante anche capire da dove, come si muove l'economia in questi casi e come magari si torna alla normalità. A proposito di normalità, Alessandro, allora le spese di condominio, che sei affezionato al tema, le spese di condominio sono sull'Esperto Risponde oggi, nell'allegato dell'Esperto Risponde sul Sole 24 Ore, trovi la ripartizione corretta così, specialmente per quanto riguarda il piano a cui uno abita e quindi la ripartizione delle spese. E poi ti parliamo anche del home restaurant nelle pagine di Risparmio e Famiglia, ma soprattutto c'è un ebook, sai che tutti i lunedì noi diamo un ebook, si può avere gratuitamente prelevando il codice che si trova appunto nell'allegato dell'Esperto Risponde, dedicato a i mutari e Tasi, un tema, come dire, sempre attuale. Vorrei segnalare la vignetta di Domenico Rosa proprio sui fatti di Parigi, a mio parere molto bella, poi la vedranno chiaramente i lettori. E ti vorrei segnalare anche le questioni di internet e il lavoro, perché dopo l'attuazione del Jobs Act un po' di regole sono cambiate. E quindi deve essere una policy aziendale molto chiara sul controllo eventuale, sull'utilizzo delle mail di internet da parte dei dipendenti, ma ti spieghiamo tutto nelle pagine di Norme e Tributi, che naturalmente tu leggerai con molta attenzione come sempre. Poi la manovra, i fondi per la sicurezza, una cosa ancora che sta sul Sole 24 Ore insieme a molte altre a seguito appunto dei fatti di Parigi. E molto altro naturalmente sul Sole 24 Ore, ma posso, Alessandro, mi dai il permesso di non salutare nel mio modo abituale, sì, un po' enfatico. Vabbè. Ecco, non mi sembra la giornata. Allora, una buona giornata a tutti, vediamo che giornata sarà, come evolveranno le cose anche dal punto di vista economico, che è comunque molto importante per restare nella normalità. Grazie Alessandro, domani. A domani. Alessandro Milan, la annuccia nella Coca-Cola dell'informazione. Milan, tu sei una fava. Ciao bello. E allora, ciao bello anche te. Che dire? Ci sono ancora alcune notizie veloci tra i tanti articoli ovviamente dedicati alla vicenda di Parigi. Renzi che dice: vinceremo ma con la testa, cioè non può esserci una reazione di pancia ma di cuore sì. La politica non deve dividersi, riflessi sull'Italia sono ovviamente che c'è massima allerta. C'è questo articolo del Fatto Quotidiano che racconta come ci siano 1000 estremisti in Italia sotto l'attenzione ovviamente di intelligence. Alessandro Mantovani racconta, pagina 6, un numero in realtà non lo regala nessuno, sarebbe un dato inutile sul piano investigativo, si parla di qualche centinaio di persone, ma polizie e carabinieri sarebbero sulle tracce di circa 1000 persone che sono tenute nei radar, diciamo così. C'è una stretta nelle carceri, c'è un controllo sul web, un controllo dei cieli. Anche il procuratore antimafia Roberti, intervistato da Repubblica, dice: dovremo in qualche modo limitare e concedere un po' delle nostre libertà per un controllo più stringente. C'è anche un timore che ha lanciato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, legata alla questione del Carnevale di Venezia. Giù le maschere, il titolo di pagina 15 del Corriere della Sera, i timori di Venezia per il Carnevale. Zaia dice: chiederò oggi stesso al prefetto di Venezia di rafforzare i controlli, di far passare al Carnevale di Venezia tutti sotto il metal detector e di fare identificare tutti togliendo le maschere prima della festa. Identificare tutti, così dice Zaia. Roma rafforza i controlli, ma certo c'è questo timore sul Carnevale di Venezia, scrive e dice Luca Zaia, scrivono i vari giornali. Il Corriere della Sera dedica una pagina a questo. Poi noi ci facciamo sempre un po' distinguere. L'articolo di Carlo Tecce sul Fatto Quotidiano: ci sarebbe un direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, infuriato, dato per furibondo dal Fatto Quotidiano perché gli inviati della RAI al seguito del G20 ad Antalya in Turchia sono andati in hotel di lusso con stanze di almeno 500 euro l'una di costo. Questo perché hanno pernottato nella cosiddetta zona rossa, per essere più vicini e risparmiare qualche minuto ogni giorno all'ingresso per seguire gli incontri. Gli inviati RAI negli hotel di lusso, il direttore generale furioso. Questo è il titolo dell'articolo di Carlo Tecce a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Diamo un rapido sguardo a qualcosa d'altro che c'è sui giornali, perché comunque c'è. Vi voglio segnalare, la politica si interroga sempre sul ruolo di De Luca, presidente della Regione Campania. Ora c'è la segretaria del PD campano, e cioè la segretaria Assunta Tartaglione, che dice: De Luca fa male al PD. Questo è il titolo principale di Repubblica. La notizia politica del giorno per me è un'altra. Giobbe Covatta. Avete presente Giobbe Covatta, il comico? È diventato il portavoce dei Verdi, cioè ha sostituito Angelo Bonelli, è il leader dei Verdi. Lui in realtà si definisce testimonial, insomma è il secondo comico dopo Beppe Grillo di Fatto che fa politica. Giobbe Covatta viene anche intervistato da Repubblica. Lavinia Rivara, incuriosita da questa decisione, dice: ma come? Ma io sono più un testimonial, non sono un politico, faccio il comico e faccio un altro lavoro. E infatti fa anche questa battuta: semmai da verde ora cercherò di fare una raccolta fondi in Sudan per portare l'acqua a Messina. Si mette a ridere, c'è poco da ridere in realtà, ma non è un progetto, è una cazzata, aggiunge lo stesso Giobbe Covatta, e ci mancherebbe. E comunque, per la verità, lui si era già presentato col centro-sinistra alle ultime regionali, è stato anche già consigliere comunale a Roma. E dice: lui mi fece fregare quella volta da Veltroni, ma per fortuna dopo 2 anni lui si candidò premier e si sciolse il consiglio comunale. Così Giobbe Covatta, che ora è il portavoce dei Verdi. Vabbè, mentre invece a Rimini c'è la possibilità che la prima moglie di Beppe Grillo, Sonia Toni, 61 anni, possa candidarsi a Rimini. Vabbè, notizie di politica, anche questo. Dai, siamo all'articolo Mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata. È una storia di burocrazia ed è questa: case, multe, rimborsi, storie di burocrazia, racconta tutto Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. La burocrazia in Italia. Sapete per esempio questo: un alloggio per essere deve avere una superficie minima calpestabile, 28,80 metri quadrati. Lo hanno stabilito dei burocrati. Risultato: ci sono a Milano 393 alloggi, case popolari, con una metratura minore di 28,80, per cui non possono essere assegnate, non sono calpestabili e sono lì. per legge non possono essere date a nessuno. I 393 appartamenti a Milano vuoti perché troppo piccoli. È una norma regionale che vieta di darli a chi li vorrebbe. Mentre la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è questo: una pagina intera dei 40 anni di usa e getta, i 40 anni del rasoio a mano, i 40 anni del rasoio a mano. Ma chi se ne frega?